Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko alla sassofonista e compositrice Laura Newsday. Ciao Laura, benvenuta a Radio Città Fujiko. Ciao Adele, grazie dell'invito. Ti chiamo per parlare un po' dell'evento che ci sarà questo 23 ottobre al cimitero monumentale della Certosa, Ubicon System, una performance site specific. Di che cosa si tratta? Allora, il concerto avverrà nella Sala del Colombario, che è uno dei tanti luoghi che compongono il cimitero della Certosa, ed è una sala speciale perché ha un'acustica particolare, con un lungo reverbero, quindi la capacità del suono di diffondersi per molti secondi dopo, da quando appunto viene prodotto e diciamo lanciato nello spazio circostante. E il progetto in realtà è molto più ampio, cioè la partenza di un progetto che appunto ti posso raccontare, che diciamo parte con questo concerto, ma non è fatto solo di performance dal vivo. Puoi spiegare meglio questa cosa, nel senso che la giornata del 23 sarà una serata, ma fai riferimento anche a momenti non dal vivo, come si struttura questo progetto? Allora, il 23 appunto sarà un concerto che appunto mi vede al sassofono e accompagnata da altri due strumentisti, che sono Stefano Pilia, che suonerà il basso, e Giacomo Bertocchi, che invece è un clarinettista, un fiatista, e che suonerà il clarinetto. Quindi non suoneremo tutti e tre insieme, ma io suonerò con loro e da sola, quindi è un concerto che si comporrà di tre momenti distinti. Però in generale Ubicon System è un progetto al quale ho lavorato negli ultimi mesi, che è basato diciamo sullo spazio della città di Bologna, e quindi praticamente io mi sono recata da sola o con altri musicisti, tra cui anche appunto Stefano e Giacomo, a registrare dei suoni con degli strumenti in cinque location diverse della città. E da queste registrazioni poi ho composto cinque brani che sono pensati per essere ascoltati in cuffia nei luoghi in cui sono stati registrati. Queste cinque location, che innanzitutto ti chiedo se puoi dirci quali sono, hanno un significato simbolico preciso poi all'interno del progetto che ci sta dietro, o sono scelte casualmente? Allora, i luoghi sono scelti principalmente in base alla loro acustica, e quindi alcuni hanno un'acustica molto particolare, come appunto è il caso della Sala del Colombario, e altri un po' meno, ma sono luoghi molto molto belli, molto diciamo significativi, e quindi diciamo in generale ho cercato dei luoghi che mi ispirassero, che fossero interessanti per me, o dal punto di vista del suono o dal punto di vista semplicemente dell'architettura, quindi non hanno un significato, ognuno sono luoghi molto diversi, quindi ognuno di per sé ha diciamo un suo significato. Ma l'idea è partita principalmente come cercare di fare qualcosa che mi portasse al di fuori della dimensione diciamo dello studio di registrazione e al di fuori delle venues tradizionali dove si fanno i concerti, anche perché appunto l'anno scorso siamo stati fermi per molti mesi, quindi l'idea è nata principalmente durante diciamo il lockdown. Le tue performance si basano, e correggimi se sbaglio chiaramente, sull'improvvisazione, sulla musica elettronica, sulla psichedelia e sulla sperimentazione analogica. C'è una descrizione o una definizione che meglio permette di raggruppare assieme questi vari generi, queste varie tecniche all'interno della tua musica? Allora, forse diciamo un modo per raggruppare tutte queste cose è il termine elettroacustica, perché appunto diciamo io sono sassofonista, però ho studiato anche musica elettronica e mi occupo anche di quello, quindi sono molto interessata a come diciamo combinare gli strumenti acustici tradizionali, principalmente il sassofono, che è appunto il mio strumento, in un contesto che però è tecnologico. E diciamo che anche questo progetto, infatti, anche se può non sembrare, perché tutti gli strumenti coinvolti sono strumenti acustici, quindi appunto io ho il sax, Stefano Pilia ha suonato il contrabbasso, poi c'è Flavio Zanottini ha suonato la tromba, Enrico Malatesta appunto un percussionista, insomma tutti gli strumenti acustici, però in realtà il focus è che tutte queste performance sono state registrate con diversi tipi di microfonazione. Quindi anche qui di nuovo c'è, come in maniera diversa rispetto a quello che faccio di solito, con diciamo i miei live set dal vivo, oppure quello che potete ascoltare nel mio album, per dire. Però anche qui c'è un focus che unisce da una parte gli strumenti acustici e dall'altra comunque un uso mirato di tutto quello che è in qualche modo elettrificato, comunque tecnologico, quindi in questo caso i microfoni. Laura, io ti ringrazio di questa chiacchierata e invito tutte e tutti a partecipare alla serata del 23 ottobre che, ripetiamo, si terrà al Cimitero Monumentale della Certosa, e speriamo di vederci presto. Grazie a te, Adele, vi aspetto il 23.